ricordi. Cascherò dalle nuvole, è bello come mi incanti. Maledetto tipo Baudelaire, è crudele sta luna. Un pieno di adrenalina, è tardi, chiamami un taxi, poi ti cercherò domattina. E la tua voce è uno sparo, fredda come Milano. Non ti accorgi che tremo, ma non lo vedi, vado al manicomio. Così dolce sì, però ti odio. Io non so come fai, ma mi prendi come pochi. Ci perdiamo tra le luci, dentro il suono di una musica ipnotica. Io non so come fai, ma mi prendi come pochi. Ci perdiamo tra le luci, dentro il suono di una musica ipnotica. Nei miei occhi il Tamigi, così ti giuro mi uccidi. Mi rigiro nel letto, affondo tra i tuoi respiri. E so che vuoi litigare, fai come le onde del mare. È bello se mi riprendi ogni volta che devo andare. E la mia voce è uno sparo, un quadro di Frida Kahlo. Fuori sanguina al cielo. Se te ne vai così non lo sopporto. Il tuo sapore mi è rimasto addosso. Io non so come fai, ma mi prendi come pochi. Ci perdiamo tra le luci, dentro il suono di una musica ipnotica. Io non so come fai, ma mi prendi come pochi. Ci perdiamo tra le luci, dentro il suono di una musica ipnotica. Musica.